Forza Chiesa, ci piace essere in casa insieme? Oh, a me sì, a me piace un sacco vedervi dal vivo, abbracciarci. Vogliamo fare un applauso a tutti i nostri papà che sono qui, voglio onorare tutti i papà, quelli che stanno per diventarlo, quelli che lo sono. Voglio onorare il mio maritino che è il papà fantastico, non posso neanche piangere. Allora David ha fatto un testo, ha scritto descrivi tuo padre. No, quello era Abram che ha scritto la forma fisica, ha scritto fotomodello, no, ha scritto ciccione. Poi gli ha scritto tutta una serie di cose, però l'altro figlio, David, ha scritto una cosa bellissima sul papà, ha detto è il primo padre che si prende cura di me. E quindi abbiamo tutti pianto, chiaramente. Però mi sono resa conto di quanto questa sia la manifestazione più bella dell'essere papà e della paternità di Dio nei nostri riguardi. Lui si manifesta con noi come un padre che si prende cura, prima di tutto, che è pronto a sacrificare tutto per noi, per riempire il nostro bisogno principale, che non è quello che noi possiamo vedere in questa vita terrena, ma che è quello di salvarci per l'eternità, di concederci una vita abbondante sin da questa vita, ma soprattutto in quella eterna. E questo è il nostro papà, ci piace? E lui vogliamo celebrare, lui vogliamo celebrare. Vi chiedo scusa per la mia voce, ho cantato tutta la settimana, e quindi sorgi e risplendi, Chiesa. Ci piace? Questa è una chiamata che abbiamo quest'anno, è il nostro ruolo, è la chiamata specifica che Dio ci ha dato per il 2023. Quest'anno come Chiesa siamo chiamati a sorgere e risplendere. Leggiamo il verso insieme. Sorgi e risplendi da Isaia 60, poiché la tua luce è giunta, la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno è spuntata sopra di te. C'è un motivo per cui sorgere e splendere, non di luce nostra, non perché stiamo bene, non perché quest'anno ci gira così, no, perché la sua luce è sorta su di noi, perché la sua gloria mette in fuga le tenebre, poiché ecco le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge l'Eterno e la sua gloria appare su di te. Noi risplendiamo della sua gloria, noi sorgiamo dalle tenebre, ci alziamo dalla polvere e riflettiamo la sua splendente luce. Dio non ci chiama ad essere luci da noi stessi, e lo vedremo oggi, ma a riflettere quella che è la sua luce. Per questo quest'anno dobbiamo sorgere e risplendere. E questo è un mese in cui vogliamo sorgere e risplendere nell'evangelizzare. Ci piace? La nostra Chiesa è da sempre, proprio nel DNA della Chiesa, c'era un pannello qualche tempo fa, mercoledì abbiamo guardato ancora ad un po' di storia, il pastore ci ha fatto vedere delle foto che riguardavano proprio le campagne evangelistiche fatte sin dalla fondazione della nostra Chiesa. La nostra Chiesa nasce per persone che sono arrivate qui a parlare di Lui, a parlare di Gesù per strada e ha continuato ad essere così. Ogni anno in anno, di stagione in stagione, Dio ci ha chiamato e ci ricorda qual è il mandato della nostra Chiesa, che non è quello di stare bene comodi qui, ma di fare accomodare quante più persone possibili. Guardate quanti posti liberi abbiamo ancora, non molti, ma in questi posti liberi noi siamo chiamati a fare accomodare ogni persona che non conosce ancora Gesù. E non necessariamente perché entrano da quella porta da soli e il team di benvenuto fa un ottimo lavoro per accompagnarli, ma perché sono i miei amici, perché sono i tuoi parenti, perché è la tua compagnia, perché sono i tuoi colleghi, perché è il tuo posto di lavoro che viene qui, perché è la classe dei tuoi amici che viene qui. Noi siamo chiamati a sorgere e risplendere nell'evangelizzazione. Il Covid forse ci ha ostacolato, non potevamo fare campagne evangelistiche. Le campagne evangelistiche, gli eventi evangelistici, ci servono veramente per evangelizzare. Sono gli eventi evangelistici che ci devono ricordare di parlare di Gesù agli altri. Sono gli eventi evangelistici o le campagne evangelistiche. Oggi devo fare evangelizzazione, che è nel DNA che Dio ha impresso nella sua sposa? No. La campagna evangelistica o l'evento evangelistico sono delle occasioni straordinarie, perché magari ci sono delle cose speciali, o un momento particolare, o un ospite particolare, o delle cose particolari che si fanno per attirare le persone, per fargli vedere che non siamo quelli l'evangelist, o che siamo strani, o che facciamo il lavaggio della testa, ma per far vedere pubblicamente, manifestare pubblicamente Gesù. Ma non è questo a cui siamo chiamati. Noi siamo chiamati a portare Gesù, punto. Non ci serve un evento evangelistico per farlo. Cioè, ora giovedì, no scusatemi, sabato c'è Giochiamo, un evento evangelistico nella rete dei bambini. E allora noi evangelizziamo sabato. Però se domenica incontriamo i nostri amici che non conoscono Gesù, no, perché non è nella campagna evangelistica della Chiesa, quindi non posso farlo. Chiesa, gli eventi evangelistici ci servono. Gli eventi in generale ci servono per prepararci, ma non possono sostituire la nostra risposta alla chiamata di Dio. E la chiamata di Dio per te e per me è questa. Poi udì una voce del Signore che diceva: chi manderò? E chi andrà per noi? E noi dobbiamo rispondere giornalmente: eccomi, manda me. Eccomi, manda me. La chiamata ad andare e a parlare di Gesù per tutti i popoli, in tutte le nazioni, in ogni tempo e ogni giorno per te e per me, una sfida che la parola di Dio ci propone. Tutto il Nuovo Testamento è così, tutto l'Antico Testamento è così, tutto l'amore che Dio riesce ad elargire al suo popolo ci ricorda che questo amore non può essere solamente per noi. È troppo. Non può essere contenuto, perché non può essere contenuto, perché non deve essere contenuto qui, non deve essere contenuto tra di noi. È bello stare tra di noi, è bello sapere chi si siederà esattamente accanto a te ogni domenica, vero? Oggi vedo dei posti cambiati, vedo qualcuno che ha cambiato posto, no? Beccavo qualcuno, non vi vedo perché non ho gli occhiali, però qualcuno ho notato che si è seduto in un altro posto. Tu hai cambiato posto oggi? Bravo, grazie. Oggi sorprendentemente c'è un'altra persona accanto a te, vero? E questo a volte ci destabilizza, per cui è più facile sapere chi siederà accanto a noi, ma noi non siamo chiamati a questo. Noi siamo chiamati ad alzarci e a far sedere chi non ha ancora ricevuto questo potente Vangelo. La chiamata che Dio ha rivolto ad Isaia, la chiamata che Gesù ha rivolto ai discepoli, è ancora per noi ogni giorno un richiamo. E questa domanda di Gesù, questo invito, questa è una chiamata che Gesù ha per noi ancora. Ogni giorno dice: chi andrà per noi? E ancora ogni giorno io devo rispondere: eccomi, manda me. Eccomi, manda me. Nel mio posto di lavoro, eccomi, manda me. A scuola tra i compagni, eccomi, manda me. Sui miei social, eccomi, manda me. Al posto di tenere questa domanda, cosa stai pensando su Facebook, dovremmo creare un social nuovo che ha una domanda perenne, non appena entriamo, che ci dice: chi andrà per noi? Chi andrà per noi? Forse pubblicheremmo molte meno schifezze, vero? Infatti, c'era un infatti radicale, forte. L'evangelizzare, la chiamata di Dio ad evangelizzare Chiesa, purtroppo non è un evento, non può essere un momento, ma è uno stile di vita. Ora so cosa mi sta, anzi vi voglio dirlo di nuovo: evangelizzare non è un evento, non è un momento, ma è uno stile di vita. Non abbiamo bisogno che il pastore ci ricordi che questo è il mese dell'evangelizzazione. Non dovremmo aver bisogno che i pastori ci ricordano questo è il mese dell'evangelizzazione. Allora evangelizziamo solo a marzo, ad aprile no, perché è Pasqua. Quindi non possiamo parlare di Gesù. No, questo è un mese per ricordarci che Dio ha una chiamata specifica per noi, che nessuno di noi è esente da questa chiamata e che se sei seduto in questa chiesa è perché nel DNA di questa chiesa c'è l'evangelizzazione. Voglio dirti come io sono arrivata a Cristo. Il seme di Gesù, la parola di Dio, è entrata nella mia famiglia grazie ad un evento evangelistico. C'era un evento evangelistico fatto intorno agli anni 90, 92, 93, con un gruppo di americani che credo fermamente fossero i genitori di Carly, praticamente, che venivano qui per aiutare la chiesa ad evangelizzare in piazza. E in villa, nella villa della città, c'era una comitiva. In questa comitiva c'era mia zia, i miei zii, zia Lori e zio Pino. E durante la loro canonica serata si sono fermati a guardare quello che stava accadendo dal palco di queste persone strane che stavano parlando di Gesù. E il seme di Cristo è entrato nel cuore di mia zia, la più piccola di 5 fratelli. Noi proveniamo da una famiglia, dalla parte di mia madre, estremamente cattolica, ma non cattolica per dire, fervente, praticante. Io ho servito al Sacro Cuore di Gesù. Io ho fatto la comunione, la cresima e tutti i sacramenti. Io ho servito al Corpus Domini. Io ero alla processione della Madonna, cioè io ero quella bambina che ci credeva, che prendeva l'ostia, perché venivamo da una famiglia di cattolici molto convinti, quindi Dio è sempre stato nella nostra famiglia. Ma quando mia zia ha sentito parlare di Gesù, ha detto: ma io questo Dio non lo conosco, perché nonostante i decenni, i secoli di storia familiare cattolica, mia zia non aveva mai letto nulla dalla parola di Dio con la propria testa. E quello che è successo è che qualche credente di questa chiesa, dopo l'evangelizzazione, ha detto: ma perché non apri la Bibbia? E mia zia ha cominciato ad incontrare quasi settimanalmente qualcuno della nostra chiesa che gli ha parlato di Gesù. E dopo che mia zia ha compreso bene questo messaggio potente, ha cominciato a dirlo a tutti. A tutti, non c'era persona che non poteva sentire parlare del messaggio di Cristo. Io all'epoca avevo 13-14 anni. Mia zia ha cominciato a parlare di Gesù a tutti i suoi fratelli. E la prima persona ad accettare Gesù dopo mia zia è stata mia madre. Il suo cuore era già preparato, il suo cuore era già tenero per ricevere l'Evangelo. Poi gli altri miei zii e tutto il resto. Ad un certo punto, quindi, questa cosa ha creato una frattura nella mia famiglia. C'era la parte della famiglia che si era fatta già lavare la testa da questi evangelici che fanno le cose strane, e c'era la parte della famiglia che è rimasta nelle tenebre, perché eravamo nelle tenebre, eravamo quelli duri, quelli rotti dentro, quelli pieni di dolore, ma che dovevano resistere a questo messaggio. E ad un certo punto mia madre ha cominciato a parlare di Gesù. Anche con mia madre, stessa cosa. Mia madre ha accettato Gesù, è venuta una volta in chiesa, mio padre l'ha ostacolata, ora grazie a Dio è diverso, ma prima era un testardo, ancora ora lo è, ma ora è nel nome di Gesù diverso per il suo regno. Mia madre non poteva più venire in chiesa. E allora ogni settimana c'era Graziella, mi ricordo bene, con Rosa Altamura, con Sofia, con Carla Viale, che venivano a casa a portare il messaggio dell'Evangelo. Ad un certo punto mio padre è diventato talmente duro che mia madre ha detto: che cosa devo fare con questo marito? E il pastore Pinuccio ha detto: non ti preoccupare, cominceremo a pregare per lui. E ogni lunedì, papà e mamma, vero? Ogni lunedì queste sorelle, prima di venire a casa, facevano una passeggiata di preghiere intorno al locale dei miei genitori. Io credo fermamente che quelle preghiere abbiano ammorbidito il cuore di mio padre. Che cosa è successo? In questo frangente sono passati 1 anno e mezzo, vero? Mamma, dov'è? Qui. Mamma, 1 anno e mezzo circa che non potevi andare in chiesa. Intanto lei parlava di Gesù a tutti i suoi amici si convertivano, si battezzavano. Ad un certo punto, ovviamente, doveva parlare anche con me. Quello che non vi ho detto è che mia zia, da quando ho conosciuto Gesù, ogni settimana parlava di Gesù per me, a me e alle mie amiche. Non potevo uscire dalla casa di mia nonna, che lei non si dovesse fermare ad imporre le mani su di me. Oh, mi scriveva le lettere piene dei versi, sempre a cantare queste canzoni. Era imbarazzante avere una zia evangelica, perché non c'era compleanno che non ti doveva imporre le mani davanti a tutti. Era una cosa terribile. E questo non lo puoi fare, Sara, stai attenta, perché la parola di Dio, mamma mia. E andavi nella sua cameretta, c'erano i versetti del calendario dappertutto, entravi in bagno, tutti i versetti dappertutto. Non potevi andare in nessun posto, mia zia non avesse messo la parola di Dio. E poi ha cominciato mia madre a farlo, a casa nostra. E io ero nera dentro, ero nera fuori, ero nera di filosofie orientali, ero nera di dipendenze dall'alcol, ero nera di tutto. E mia madre ha cominciato a parlarmi di Gesù e io ero più folle di mio padre. Ho detto: no, hanno fatto anche a lei il lavaggio della testa. E allora con mio padre la chiudevamo a chiave. Sono verità, vero papi? Dov'è mio padre? proprio tutta verità, la chiudevamo a chiave per non farla venire in chiesa. Ad un certo punto mia madre mi dice, mi trova alle pezze, ero depressa, avevo tentato il suicidio, lei non lo sapeva, ad un certo punto lo stavo per riprovare, e mia madre mi dice così un giorno, hai letto un sacco di libri, hai letto tantissime cose, ma perché non provi con la parola di Dio? Sapete, per non sentirla più dire, ho detto, va bene, voglio provarla questa, vediamo cosa dice. E ho preso un pezzo della Bibbia, no, vi ricordate parole di vita? Pane di vita, quei bigliettini? Ho preso un verso e diceva, getta il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo tu lo troverai, ed è in Ecclesiaste 11:1. E questo verso mi ha sconvolta. Così mi sono chiusa nel bagno, ho fatto la mia preghiera. La mia preghiera è stata questa, Allah, Buddha, Geova, non lo so, Maometto, come ti chiami, non lo so, ma se sei vero, se esisti, tu devi fare qualcosa per me. Punto. Ho chiuso il bagno e questa era la mia preghiera. Quella sera avevo pianificato il mio suicidio e quella volta sarebbe stata perfetta per me. E lì sul balcone Gesù si è manifestato a me dicendomi, figlia mia, io ti amo. Dal giorno dopo ero un'altra persona. Sono andata da mia madre e ho detto, c'avevi ragione, non siete tutti pazzi, sono diventata pazza pure io. Ed è successo che quella domenica si battezzava un'amica di mia madre a cui lei aveva parlato di Gesù. E sono entrata in questa chiesa e c'era Stefano che ha fatto un appello di salvezza. E io ho risposto a quell'appello di salvezza. E da quella domenica non sono mai più mancata in chiesa la domenica. Da quella domenica ho cominciato a dire al pastore Pinuccio, lascia 4 sedie perché un giorno ci sederemo io, mia madre, mio padre e mia sorella. Ci è voluto un altro anno e poi il marito della migliore amica di mia madre si è battezzato e mio padre è venuto a quell'incontro e mio padre ha accettato Gesù e da quel momento in poi la storia della nostra famiglia è cambiata. Nel 99, gennaio 99, io, mia madre e mio padre eravamo nella vasca battesimale insieme e mia sorella, un po' più piccola, dopo ci ha seguito. Questo è come il Vangelo è entrato nella mia famiglia. Oggi io sono mamma a 40 anni e mio figlio, quando scrive racconti, questa settimana ha scritto un altro testo, la maestra gli ha chiesto cosa vuoi fare da grande. Mio figlio ha detto, io da grande voglio parlare a tutti di Gesù. Questa è la 4ª generazione e tutto è nato da quell'evento evangelistico in cui mia zia ha ascoltato parlare di Gesù. E guardate quanti passaggi, un evento evangelistico. Quindi tu che sei seduto qui, forse hai pagato a tutti i credenti che c'erano prima del 90, forse le vostre decime e offerte sono servite a creare quell'evento. Per tutti coloro che erano qui dal 90 al 2000, le vostre preghiere, i gruppi, vedo Lello, vedo Stefano e tanti altri, i gruppi familiari in casa sono serviti a far crescere una famiglia da questo punto di vista. Dal 2000 al 2010 questa chiesa ha fatto crescere tante altre famiglie, dal 2010 al 2020 i nostri figli ora conoscono Gesù, dal 2020 al 2050, a tutta la storia che Dio vuole darci come chiesa, il DNA della nostra chiesa è per evangelizzare. È per prenderci cura di ogni persona che Dio ci affida. Ed è facile parlare di Gesù e basta, ma questa chiesa è famosa perché da sempre si è presa cura di ogni nuovo figlio di Dio. Nel discepolato, nella cura, nell'incontro, nei gruppi, negli appuntamenti personali, nei caffè. Non so più, mia madre è una caffeinomane, grazie a quante persone invita a casa giornalmente per parlare di Gesù. E questo so che è l'abitudine di tutti quanti noi. Chiesa, noi dobbiamo tornare a sorgere e risplendere da questo punto di vista. Amen? Sei con me in questo? La senti questa chiamata di Dio per noi? Chi andrà per noi? Chi manderò? Vuoi oggi rispondere, manda me, per vedere tante famiglie ancora essere riscattate, tante generazioni ancora essere riscattate. Questo è il tuo contributo oggi. Oggi tu hai la possibilità di far entrare Gesù nella vita di una persona e il seme rimarrà lì per 4, 10, 20 generazioni. Amen. Ti sto mettendo una bombetta sotto la sedia. Ti sto facendo sentire il fervore, l'amore di Cristo Gesù, la sua urgenza di parlare di Gesù agli altri. Quali sono i blocchi? Cosa si aspetta Gesù? Gesù nel sermone sul monte a un certo punto ha detto nella sua predicazione più famosa questi versi. Voi siete il sale della terra. Se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Ancora Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Noi siamo sale e luce. L'invito di Cristo Gesù, la sua descrizione per noi è questa: tu sei sale e luce. Sale e luce. Entrambe queste sostanze, questa materia, non sono fatte per fare qualcosa, sono qualcosa. Il sale è, e in quanto è, fa qualcosa. La luce è, e in quanto è, fa cadere qualcosa. Cosa vuol dire? Parlare di Gesù non ha a che fare con il fare qualcosa, ma il parlare di Gesù agli altri parte con l'essere qualcosa. Noi siamo sale e luce. Non ci ha detto siate buoni evangelisti o fate delle buonissime opere evangelistiche. Gesù ha detto siete sale e luce, siete. Ora, ti voglio dare tre segreti straordinari per evangelizzare nel miglior modo possibile, una modalità standardizzata, osservata e ricercata, e che dà automaticamente una chiave di successo per forza. Sei pronto? Tre consigli. Scrivi gli appunti se li hai scritti. Come fare un'evangelizzazione di successo. Primo punto, chi sei? Secondo punto, come sei? Terzo punto, dove sei? Ti piace? No. Ti piace? Ah, vuoi che ve lo spiego? Ok, lo spiego. Quanti di noi hanno visto qualcun altro più bravo di noi a parlare di Gesù? Io entro in una celleria dei miei genitori, faccio pubblicità sempre, La decima, papà, mi raccomando. Quindi, entro da loro e puntualmente i miei genitori, mentre tagliano la carne, mentre fanno l'arrosto, mentre incartano, stanno parlando di Gesù a qualcuno, perché qualcuno è entrato e o si è lamentato o ha un problema, o vanno e loro cominciano a parlare di Gesù. Io ammiro, estimo la loro capacità di cominciare un discorso e portarlo su Gesù. Hanno un talento in questo, ma questi sono mio padre e mia madre. E io posso essere simile a loro, ma non sono loro. Io sono io. Sono Sara, ho 40 anni, sono mamma, sono nelle chat delle mamme, sono una psicologa, questa sono io. Io non posso essere Nino, io non posso essere il pastore, io non posso essere Carli, io non posso essere Luciana, io non posso essere Angela. Io sono io. La mia chiave per evangelizzare al meglio è evangelizzare così come sono. Con il mio sorriso, con il fatto che faccio piangere le persone, con i fazzoletti, con la parola dolce, con la parola gentile, con le opportunità. Io ce l'ho un talento. Io ce l'ho un talento. Io mi fermo e vedrete che in poco tempo, questo non lo fate voi, ma per gli altri lo dico, che verranno a parlarmi dei loro problemi. Velocemente qualcuno parlerà dei miei problemi. Mio marito dice: mamma mia, Sara, non possiamo andare neanche al supermercato. E capita. È la mia capacità. Perché sono fatta così? No, perché Dio mi ha fatto così. Posso essere un orecchio per gli altri. Tu come sei? Tu chi sei ora? Sei una mamma? Sei un papà? Sei un lavoratore? Hai Facebook? Sei uno studente? Questa è la tua identità. Non puoi essere qualcun altro. Sei pensionato, sei casalinga, sei un adolescente, sei un giovane, sei un papà, sei una mamma. Tu sei questo. Usa chi sei per parlare di Gesù. Non devi distorcerti. Non devi cercare di essere qualcun altro. Devi essere tu. Parla da chi sei. Parla dalla tua identità, parla dalla tua posizione, parla da come sei fatto, dalla tua storia, dalla tua esperienza, parla da chi sei. Secondo consiglio, parla come sei. Come sei? Tu come sei? Sei sorridente, sei divertente, porti gioia, sai fare buoni dolci, sai fare... No, no Giuseppe, sono ancora alla prima pagina, ce ne ho tre. Vabbè, stai con me, dai, stai con me. Tu come sei, Giuseppe? Sei puntuale oggi, troppo puntuale oggi. Come sei? Tu come sei? Come sei tu? Sei radicale, sei stabile, sei forte. Tu preghi duro, oh, tu preghi. Io amo le persone che mi dicono prego per te e pregano. Oh, questa è una capacità che Dio ti ha dato. Questo fa parte di te, non devi sforzarti, devi essere, puoi evangelizzare come sei, chi sei, con chi sei, come sei. E voglio parlare ancora del dove sei. Chiesa, noi abbiamo una piattaforma che Dio ci concede naturalmente. Noi abbiamo un palco per evangelizzare giornalmente, sai qual è? È la tua vita quotidiana. Io sono una mamma, ho 40 anni, anche se ne dimostro molto meno, mi sveglio e ho i miei figli. E fino a quando non avrò che la certezza che i miei figli avranno accettato Gesù nella loro vita, io ho due persone da evangelizzare in casa mia. Questa è la mia prima piattaforma. Forse sei moglie o marito di una persona che non ha ancora fatto un passo di salvezza, è la tua prima piattaforma. La tua cucina, il tuo soggiorno, questa è la tua prima persona da evangelizzare. Ti dico ancora chi sono. Sono una mamma che va a prendere i figli da scuola e quindi devo andare 10 minuti prima, altrimenti mi etichettano come una mamma terribile. Io arrivo sempre di corsa e quando arrivo ci sono già delle altre mamme. E allora ho la possibilità di mettermi distante, aspettare che mio figlio esca, lasciare che le altre mamme parlino del più e del meno, di chiacchiere che non mi interessano proprio. Oppure ho la possibilità di avvicinarmi e dire, ehi, tutto bene? Come stai? E magari la conversazione cambia, perché non è più la conversazione per altro, ma qualcuno ti dice veramente come stai. Questa sono io. Io ho una capacità di chiedere come stai a chiunque. E quindi devo scegliere e devo guardare che la mia piattaforma è essere lì. Essere in mezzo a quelle mamme. La mia piattaforma sono i social. Io devo scegliere di usare i miei social con come sono, con chi sono, con il messaggio potente del Vangelo. Il tuo lavoro non è il mio lavoro. Io non potrò venire dove lavori tu. Tu non potrai venire tra le mamme della scuola dove sto io. La tua casa, il tuo vicinato. Oh, il tuo vicinato. Noi non siamo una famiglia che diciamo può passare inosservato, ok? Per tanti motivi. Però il mio scopo, il mio obiettivo è di parlare di Gesù a tutta la mia strada. E ho una strada con tantissime case. E ho cominciato dalla persona accanto, la signora di più avanti ha avuto un'operazione, loro ho detto prego per te e poi sono andata a chiedere come stai. Posso fare qualcosa per te? Poi la signora lì di fronte ha un problema e gli ho detto guarda che Gesù ti può guarire. Ho cominciato, siamo lì da 2 anni, io vedrò i frutti in quella strada. Lì è dove sono io, dove sei tu? Dove sei tu? È il tuo posto, è la tua piattaforma, è dove Dio ti ha concesso di essere e forse è dove Dio ti ha messo esattamente per parlare di Lui a quelle persone. Non devi andare da qualche altra parte necessariamente, non devi essere diverso da come sei, non devi sforzarti di confrontarti o di aggiustarti in qualche maniera, ma devi essere come sei, dove sei per portare Cristo Gesù. Ti piace? Sono la seconda pagina. Gesù ha detto: voi siete sale e siete luce. E questo è un importante suggerimento da parte di Cristo Gesù, perché il sale e la luce sono due elementi straordinari. Il sale, lo leggiamo anche in Luca 14, Gesù specifica bene il ruolo del sale, che non si capisce molto bene solamente leggendo Matteo, ma anche in Luca. Gesù riprende queste parole, dice: voi siete il sale della terra, ma specifica, parla del sale come sostanza per dare sapore, lo sappiamo. Un'altra funzione che quasi ci è scontata in questo momento storico, ma è di conservazione. E anche per questo veniva usato il sale, per conservare i cibi. Non c'erano i frigoriferi, non c'era l'elettricità. Ma il terzo motivo a cui fa riferimento Gesù proprio in Luca è questo, e cioè non è utile neanche per la terra. Qual è il senso di questa parola? Perché la terza funzione del sale è antisettica, è disinfettante. Cioè il sale veniva messo per insaporire i cibi, per conservarli, anche veniva messa come per il potassio e per tutte le sostanze che ci sono all'interno del sale. Il sale che noi mangiamo in cucina è solamente uno dei sali, dei tipi di sale, ma esistono tanti tipi di sale. Ma quel tipo di sale a cui sta facendo riferimento Gesù è quello che veniva posto precisamente nelle vecchie latrine, cioè le case di un tempo avevano uno spazio nel terreno, no? Nel cortile, in cui veniva poi svuotata il contenitore con tutti i bisogni che si facevano, e lì doveva essere messo del sale per disinfettare il terreno e per fare in modo che non crescesse niente in quel posto, perché altrimenti non era sano. Queste sono le tre funzioni del sale, e voglio ricordarlo a noi: il sale è dare sapore ai cibi. Tu sei messo lì nella vita delle persone che hai intorno per aggiungere sapore alla loro vita, che è una vita che forse ha un sapore di morte, ha un sapore di tristezza, ma con te può essere una vita saporita, può essere una vita buona. Sapete, il sale che è usato giusto, anni di MasterChef me l'hanno insegnato, non è quando copre il cibo, perché se è troppo copre il sapore del cibo, se è poco il cibo non sa di nulla, anche se abbiamo dei cibi straordinari, ma il sale deve essere giusto perché deve valorizzare il piatto che hai davanti. Tu sei chiamato nella vita degli altri a valorizzare quello che loro hanno, quello che loro sono, e Dio ti vuole usare per dare sapore alla vita degli altri. Che è un sapore di morte, ma che può diventare un sapore di vita, una vita eterna, una vita gloriosa. L'altra funzione del sale è, abbiamo detto, quella di disinfettante. E quante vite rotte incontriamo? Quanto spesso incontriamo persone con ferite aperte, ferite date da vite strane? Io ogni giorno ascolto delle cose che sono assurde. Quanto la morte, il peccato può distruggere quelle vite, può fare del male. Ecco che Dio ci manda come sale per disinfettare, per pulire, per fare in modo che non ci sia altro in quella vita. Dio ci manda per conservare. Cosa siamo chiamati a conservare? Siamo chiamati a conservare la parola di Dio. Siamo chiamati a conservare questo messaggio di generazione in generazione, di giorno in giorno. Noi viviamo in un mondo che non è regolato da questa parola. Per questo Dio manda noi, per conservare questo messaggio pronto perché ognuno riesca ad approcciarsi. E se non la leggiamo, e se non sappiamo come pensa Gesù, come possiamo portarlo? Noi siamo anche luce. E potremmo parlare tantissimo della luce, ma una cosa sappiamo dalla fotosintesi clorofilliana: quando arriva la luce crea, la luce crea, la luce porta vita. Noi siamo sale e luce. Gesù ha detto di lui in Giovanni: mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Lui faceva riferimento a lui. E poi di noi cosa ha detto? Voi siete la luce del mondo. Ci ricordiamo? Sorge risplendida una luce che non è nostra, ma che è gloriosa di Dio. Quando Dio ci chiama luce è perché sta attingendo, è perché noi possiamo attingere alla sua luce. Dio non ci chiama ad essere luce in noi stessi. Tu non devi essere perfetto. Tu ti devi sforzare di essere perfetto. E sai, questo è proprio uno di quei blocchi che a me ostacola nell'evangelizzazione. Entrambe le maniere, sale e luce, Gesù ha detto: se il sale è insipido, a cosa servirà? Se la luce viene nascosta sotto un recipiente, a cosa servirà? Abbiamo un pericolo di avere questa enorme eredità da portare in giro le persone e di non svolgere la nostra funzione. Come si fa? Come mai il sale può diventare insipido? Come fa la luce a nascondersi? Io ho scritto quelli che sono i miei blocchi per evangelizzare. Vi va di saperli? Siete svegli? Io ho scritto per me la mancanza di sicurezza in chi sono. A volte mi sento così in difficoltà, non mi sento degna, mi sento un'ipocrita. Questa mancanza di sicurezza in chi sono mi fa dire: beh, oggi è meglio se non dico niente di Gesù, perché se guardano la mia faccia non prendono proprio un buon esempio. La mancanza di sicurezza in chi ci ha salvato. Quante volte dico: ma veramente Gesù vuole entrare in quella vita? Ma può essere che Gesù possa entrare lì? Ancora, quanti altri blocchi? La mancanza di franchezza. Non ce la faccio. Ho perso l'opportunità. Non ero connessa con lo Spirito Santo che mi diceva: dillo ora, di questa parola. Ancora, non avere una consapevolezza della salvezza. Ma sono salvato veramente? Quante volte ci facciamo queste domande? Non comprendere il dono della vita eterna pienamente. Sì, abbiamo capito che Gesù ha pagato per i nostri peccati e risorto, ma non siamo certi che poi succederà veramente questa cosa della vita eterna quando moriamo. Questi sono tra i blocchi che ognuno di noi può vivere, e queste cose fanno in modo che il nostro sale diventi insipido e che la nostra luce venga messa sotto qualche altra parte. No. Non lasciamolo, non permettere alla tua insicurezza, al tuo confronto, ai tuoi giorni sì, ai tuoi giorni no. Io sono la luce del mondo, lo ha detto Gesù. Gesù non ha giorni sì e giorni no, giorni in cui splende di più e giorni in cui splende di meno. Gesù non ha deciso che oggi guarisce e domani non guarisce, no, Gesù è Gesù, il suo amore è pronto ogni giorno, per chiunque, sempre. E Gesù non ci chiama a risplendere di una luce nostra, ma a risplendere di Lui, del suo amore, della sua potenza, della sua grazia. Ora siamo a marzo. Mio figlio ha cominciato da poco la scuola elementare, la prima elementare, il più grande è già in quarta, e il secondo è in prima elementare. E ho parlato qualche tempo fa con Millie, e mi ha chiesto: ma tu sei coinvolta nella scuola? E ho detto: no, sono già pienissima, figurati se mi metto ora a coinvolgermi anche nella scuola, ma poi regali alle maestre, no, non sono tipa io. E lei fa: sai che io, mentre ero sul campo, in alcuni anni ho interrotto il mio servizio, proprio alcune aree del mio servizio, per essere presente nella scuola dei miei figli. In che senso, le chiedo? Lei mi dice: io mi sono fatta eleggere come rappresentante e poi ero nel consiglio e il preside veniva a me a chiedere cosa dovevano insegnare a scuola. Ho detto: Milly, questa cosa mi piace, se non ha a che fare con il fare regalo alle maestre per Pasqua e Natale, allora ci posso pensare. E il Signore ha cominciato a mettere in me questa idea: questa è la tua piattaforma, guarda che sarai lì per 5 anni. Guarda che incontrerai quelle mamme ogni giorno per 5 anni. Guarda che questi sono gli amici dei tuoi figli a cui tuo figlio deve parlare di Gesù. E tu devi dargli un esempio con le mamme. Ho detto: ok, ci provo. Chi vuole essere rappresentante? Ho detto: io mi candido, mio marito. Sara, veramente, dico sì, amore, lo devo fare per il Signore. E sono rappresentante di classe. E poi è arrivato il consiglio di istituto. E ho detto: no, mi voglio candidare perché lì posso parlare con il preside. E indovinate, mi sono candidata. Ho detto: Signore, se è una porta tua, allora sono rientrata subito. E mi volevano rendere anche presidente. Ho detto: no, del consiglio. Ho detto: questo no, non mi serve, però mi serve essere lì. e allora tutte le mamme devono parlare con me, sono costrette a parlare con me perché sono rappresentante di classe, e a conoscerle, a stare. Ed è successo questo, che il Signore ha cominciato a dirmi: Sara, usa ogni cosa, usa ogni cosa, usa il Natale, usa Pasqua, usa le difficoltà dei bambini, stai lì fuori. E voglio dirvi, ho cominciato a seminare con una persona, ogni giorno a chiederle magari come stava, un'altra volta a parlare un po' più con lei. Ad un certo punto è arrivato Carnevale e abbiamo fatto incontrare i bambini per giocare, visto che c'erano le feste in piazza tutti quanti, e ho detto: dai, organizziamo un caffè tra mamme mentre i bambini giocano. E ci siamo fermati a parlare, e ad un certo punto una chiacchiera ha tirato l'altra, appunto le chiacchiere, io volevo delle chiacchiere, e questa mamma mi fa: te le faccio io che sono molto brava. Ok, grazie. Allora sono andata dalla casa a prenderle e il Signore mi ha detto: portali un regalo. Ha detto: Signora, ma non ho niente, non riesco ad avere tempo. Il Signore ha detto: scrivi una carta, un biglietto. Ho messo proprio un verso specifico, poi avevo un regalino per lei, ho detto: tieni. E sono andata via. Questa persona mi ha scritto: Sara, stamattina ero distrutta, ma tu mi hai scritto queste parole: sii forte e coraggiosa. E allora ho pianto, mi sono asciugata le lacrime e ho ricominciato a vivere la giornata. E poi le ho detto: se vuoi possiamo pregare insieme. Sì, quando? Vieni alla festa di mio figlio. Un'altra festa, bambini, ludoteca. Vieni prima della fine, parliamo e preghiamo. Così mi sono messa lì e ho detto: come stai oggi? No, non va bene. Ok, sto pregando per te. Poi è arrivata un'altra mamma, non abbiamo più pregato. E allora c'è un'altra festa di bambini, ho detto: vieni con me in macchina, ci fermiamo nella prossima festa. Qual è la mia piattaforma? Non sono un'altra persona, sono questa persona. E questo messaggio non dipende da me. Non ho sempre giornate on, ma non può dipendere da me. Voglio rileggervi i due versi di Isaia e ora concludiamo. Lo prometto. Sorge e risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno è spuntata sopra di te. Isaia 6,8. È molto caro a tutti noi questo verso. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò, chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Io voglio proprio pregare perché questo possa essere un punto che Dio ci ricorda ora, non quando usciamo, non domani, non mentre riapriamo la nostra Bibbia, ora. Eccomi, manda me. Vuoi rispondere tu a questa chiamata di Dio per la tua vita? Per piacere rispondi con chi sei, con come sei e dove sei. Non aspettare un evento evangelistico per invitare i tuoi amici. Non aspettare che la Chiesa abbia il mese dell'evangelizzazione. La tua casa, la tua vita, invita nel tuo soggiorno, invitali nella tua macchina, invitali nella tua pausa pranzo. Sapete, i miei figli sono molto più bravi di me in questo, non si fanno problemi. Quando devono parlare di Gesù lo dicono e basta, punto. Ci sia la maestra che sta insegnando, è un altro momento. Loro quando devono dire Gesù lo devono dire e basta. E noi ci facciamo un sacco di problemi, ancora una volta dobbiamo ricordarci di essere come bambini. Quando devi parlare di Gesù e basta. Segui la voce dello Spirito Santo. Siamo equipaggiati per questo. Sei pronto per questo. Hai tutto quello che ti serve. Hai i tuoi doni naturali, hai i tuoi doni spirituali. Prendi tutto quello che hai per essere il punto a questa chiamata. Chi andrà per noi? Chi manderò? Sì, il punto esclamativo: Signore, manda me. Oggi manda me, nel mio posto di lavoro manda me, nelle chat dei miei amici manda me. Amen. Vogliamo pregare un attimo. Vuoi mettere un braccio sulla persona che hai vicino? Se non la conosci, presentati. Sei qui per la prima volta, sei super benvenuto. Se sei qui per le prime volte, sei più che benvenuto. Fatti abbracciare da qualcuno, anche se non lo conosci, forse potrebbe puzzare, ma ti assicuro che ti darà il benvenuto in una famiglia straordinaria. Vogliamo pregare un attimo, insieme, sì? Signore Gesù, grazie perché questa chiamata ancora è ancora aperta per noi. Grazie Signore perché tu ci mandi, grazie perché tu ci mandi, grazie perché tu ci mandi, grazie perché tu ci mandi. E Signore, grazie perché tu sei la luce in questo mondo. Tu, Signore, sei il primo che ha dato sapore alle nostre vite, che ha conservato e che ha purificato. Signore, grazie per il tuo esempio. Ti prego che non possiamo sottovalutarlo nel parlare di te agli altri. Prego, Signore, che in questa nuova stagione di Chiesa il tuo potente Vangelo possa spandersi di generazione in generazione. Che oggi una nuova storia per tante famiglie possa cominciare per la tua gloria. Signore, ti prego, dove ci sono blocchi circa il peccato nella nostra vita, quando ci sentiamo ipocriti, ti prego, Signore, come abbiamo letto oggi nel Salmo 93, la santità si addice alla tua casa. Ti prego di invitarci, di spingerci ad essere santi per essere un buon esempio per gli altri. Ti prego che possiamo essere franchi con gli altri, che possiamo essere sicuri, che possiamo non chiederci, Signore, è oggi il giorno in cui devo parlare, ma che possiamo andare con sicurezza per la tua gloria, nel tuo nome di Gesù, nel tuo nome Gesù, e prego per una Chiesa che sia piena del tuo nome, piena della tua grazia e della tua potenza. Amen.